strafinanziata dall'America per creare che cosa? Una sorta di internet nella valigia, un sistema che possa creare una rete alla quale agganciarsi col proprio computer, un network che deve operare fuori dalle bande ufficiali e che deve essere fornito a chi? Ad attivisti oppositori costretti a vivere in regimi repressivi. Una sorta di internet non controllabile, una sorta di internet che viene messo internet in valigia e presentato proprio a questi ribelli, a queste persone che si ribellano alla situazione delle oppressive di alcuni paesi, soprattutto paesi arabi. 24 mattino. L'intervista. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, le 8:21 minuti. Per la nostra intervista di oggi voglio salutare Lucia Annunziata. Buongiorno e benvenuta, Lucia. Eccoci qua, ci sente? Lucia Annunziata, pronto? Dobbiamo perfezionare il collegamento, forse. Adesso la recuperiamo. È in linea, ma ci sente, forse. Vediamo un po' se la riusciamo a recuperare. No, comunque siamo con Lucia Annunziata, la conduttrice di In Mezz'ora su Rai 3, per cercare di capire cosa sta succedendo in Rai. Lucia, eccoci qua, ci sentiamo. Sì, pronto? Buongiorno. Eccoci, conduttrice di In Mezz'ora, cerchiamo di capire cosa sta succedendo in Rai. Intanto, conduttrice di In Mezz'ora confermata, in bilico, non si sa. Ma io ho un contratto che mi è scaduto l'anno scorso, quindi cioè sono sfasata rispetto ai maggiori contratti della rete. Sono stata confermata l'anno scorso, quindi ho un contratto confermato fino all'anno prossimo. Allora, oggi anche su Repubblica Fabio Fazio scrive una lettera dicendo: rinuncio a Vieni via con me, il programma con Saviano. In questa Rai non è possibile, lo farò in un'altra televisione. Ma che sta succedendo? Santoro via, Fazio e Saviano via? Sta succedendo quello che c'è sempre stato in Rai, cioè pressioni politiche enormi da parte del centrodestra nei confronti del centro-sinistra, delle trasmissioni del centro-sinistra. Cioè, non è che ci sia una spiegazione diversa venuta fuori dalle caverne, è sempre quello, è sempre la stessa storia. Ma si può dire trasmissioni di centro-sinistra, anche questa, perché è questa, sì, la cosa. La stessa definizione, le stesse parole che ci obbligano a usare sono ridicole, devo dire. Tra l'altro, voglio dire, la domanda è questa: ma Santoro era davvero solo una risorsa o anche un problema per la RAI? Santoro è soprattutto una risorsa, a mio parere, cioè nel senso che quando la originalità editoriale è un problema, vuol dire che l'editore non è bravo. Il problema è molto semplice. Io penso che il giornalismo, almeno dal mio punto di vista, che è un punto di vista abbastanza ormai vecchio e superato, insomma, il giornalismo è fatto per comunicare. Con più persone comunichi, meglio è. Le persone brave a comunicare, se poi sono anche difficili e sono anche particolari nel loro percorso di comunicazione, qual è Santoro, comunque il plus rimane il segno della loro capacità di parlare a un enorme numero di persone. Quindi è ovvio, io penso che non ci siano mai situazioni perfette. Santoro non è un angelo, ma Santoro non è un angelo come non lo sono io, come non lo è lei, probabilmente come non è nessuno. Il problema non è parlare del problema tra i due. Il segno qual è? Il segno di Santoro rimane il segno di un gran comunicatore. Ma allora qual è il problema? È il solito annosa questione della politica, sì, nel CDA, sì, della RAI? Sì. No. Il problema è quello di Silvio Berlusconi. Nei confronti di Santoro proprio non si può discutere. Guarda, sinistra ha moltissime colpe. Ma che tra la sinistra e Silvio Berlusconi sulla RAI il rapporto sia colpe 1000, Silvio Berlusconi e colpe, non so, 400 la sinistra, e sono anche, come vede, generosa nel giudizio, insomma. Non ci sono dubbi, il centrodestra in RAI è inaccettabile, glielo dico come ex presidente RAI, glielo dico adesso come conduttrice. Ma cos'è, c'è un'ossessione, personale Berlusconi nei confronti di Santoro? È proprio, poi siccome voglio dire, il posto, le televisioni, guardi, sembra ridicolo, lo so, sempre ridicolo, ma è la verità. Silvio Berlusconi è un uomo di comunicazione e di televisione, a parte il suo conflitto di interessi. Lui è davvero convinto che il mondo è dominato dai giudici e dai giornalisti della Santoro, e che se ed è colpa di Santoro e dei giudici se lui non va avanti. Mm. Cioè è proprio un discorso anche psicologico, oltre culturale oltre che di conflitti di interessi. Guardi, io sono stata Presidente della RAI, quei 14 mesi non li ho mai raccontati, ma le posso assicurare che le pressioni non erano per nulla sottili, per nulla. Da parte di chi? Di tutti? Da parte dei membri del centrodestra, punto e basta. Beh, solo del centrodestra, no? O 1400 come... Ma guardi, il centro-sinistra fa le sue pressioni, fa la telefonata e tu dici no, scusi, boom. Cioè, non a parte che la presidenza, devo dire che come... direttore di Rai 3, io non giustifico il centro-sinistra, ho fatto il direttore del TG3, ho fatto il presidente, adesso faccio questo. Col centro-sinistra mi sono trovata più in una situazione in cui c'era una politica di confusione, di piccolo gestione quotidiana, magari ti chiedevano di dare più spazio a una cosa che faceva il tale piuttosto che il talaltro. Con Presidenza Rai non si arrivava da nessuna parte, no, perché era 4-1, quindi sì, non c'era niente da fare. Invece Berlusconi la chiamava direttamente, no? Berlusconi mai. Berlusconi non mi ha mai chiamato, però voglio dire che le direttive di Berlusconi arrivassero direttamente dentro il CDA, l'ho detto anche io tempo fa, quando ero presidente, all'interno, l'ho fatto una conferenza stampa, non sono denunce che faccio postume, il presidente Berlusconi, io ho avuto prove, ma perché l'hanno detto, parlava direttamente con i membri del CDA la mattina prima del CDA, e io a un certo punto su una storia di questo tipo, se vuoi la racconto, ma non ormai preistoria e scontenuto, sono andata direttamente a fare una conferenza stampa alla stampa estera. Quindi voglio dire, non questa roba qui non ci si crede, ma è così, è ridicola tra l'altro nella sua semplificazione. Arriva questo terzo polo adesso, la TV, la 7, cioè ci prenderà tutto, no, la 7? Secondo me non arriva. No. Ma rimane di Telecom la 7? Rimane la mia previsione, io ieri ho fatto un'intervista a Mentana, a mezz'ora, devo dire che questo è stato, peraltro io sono Rai e resterò Rai, quindi voglio dire, se dovessi scocciarmi dalla Rai andrei a coltivare rose, devo dire come ho fatto in passato varie volte. C'è un punto, un vero, serio in Italia, che è quello della difesa del servizio pubblico, non è un problema di affetto, è un problema proprio di dire. E secondo me, perché si dice una roba in questo tempo? Ieri con Mentana ne parlavamo, come dire, lui ha difeso la 7 e io in qualche modo il servizio pubblico. Perché non ci sono possibilità? Perché ancora una volta il mercato è bloccato, e la ragione per cui il mercato è bloccato, perché la storia delle televisioni è stato il centro della politica in questi anni. Tutto è passato per la cruna, per tutto quello che è passato per la cruna della politica doveva ripassare per la cruna delle televisioni. Questo da una parte ha immobilizzato, diciamo, la capacità della nascita del terzo polo, perché tutto offendeva questo, quello, eccetera. Però secondo me ha fatto anche un danno al mercato televisivo. Però se adesso va Santoro, se dovesse andare Fazio, non so, con Saviano, Stiamo a vedere, perché il problema è anche un problema di non c'è accumulo. Ecco, non c'è accumulo di denaro. Fazio, Santoro costano tantissimo, ma costano. Lei ha sentito le cifre. Sì, costano. Ma non loro personalmente. La televisione è una macchina enorme, la mia, io per esempio ho un programma che costa pochissimo, 26.000 euro puntate, incluso, ma non c'è niente. Però portano anche, costano. Loro però costano, ma portano. Ecco, quindi, però questi sono meccanismi su cui devi partire. Quindi vediamo cosa vedere. Di fatto che cosa dice. Io penso che nonostante tutto rimane il problema, siccome la televisione è paradigmatica degli anni berlusconiani, finirà questo casino con gli anni berlusconiani, c'è poco da fare. Mi dispiace di avere una io amo le analisi complesse, ma il caso della televisione italiana non è più complesso. Semplice. Intanto la ringrazio, buona giornata a Luce Annunziata, conduttrice di Mezz'ora. Staremo a vedere, oggi è una giornata importante anche per i palinsesti Rai. 24 mattino. Allora, questa tassa sul turismo, come viene definita sui giornali, che è in arrivo, alcuni comuni l'hanno già messa a Roma, alcuni comuni ci stanno pensando seriamente, Firenze, Venezia, Pisa, Alghero, Imperia, Agrigento, e altre ancora, altri l'hanno già messa ancora, altri comuni piccolini. Vi piace questa tassa sul turismo? È il sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Certo, pensare all'estate, insomma, qui a Milano facciamo prima prendere una canoa e andare ormai da una settimana in giro per le strade. Comunque, pensiamo all'estate, arriva questa tassa di soggiorno, tassa sul turismo, che ne pensate? I nostri ascoltatori si dividono su radio24.it, al 54% prevalgono i no, però di poco, sono contrari all'idea di una nuova tassa. Ne vogliamo parlare con il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Cianella, che saluto, buongiorno e benvenuto Cianella. Buongiorno. Così come saluto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, presidente nazionale di Lega Autonomie. Sindaco, buongiorno, l'abbiamo richiamata su questo tema. Sì, mi ricordo bene. Ecco, allora come siamo? Pisa ci sta pensando, questo lo so per certo, insomma, o è già attiva? No, ci stiamo pensando, noi siamo fra i comuni che pochi, diciamo, hanno chiuso il bilancio a dicembre, quindi non ho messo nel conto un introito da tassa di soggiorno naturalmente, quindi ci stiamo preparando per l'anno prossimo, avvieremo una concertazione con i rappresentanti delle imprese, degli alberghi, gli operatori, diciamo, del settore, e l'applicheremo per il prossimo anno. Ci faccia capire, allora la tassa di soggiorno funziona che si paga per i turisti, la possono mettere i capoluoghi di provincia oppure tutte quelle località che le regioni definiscono come località turistiche. Quanto farete pagare? In genere si paga un euro, fino a un massimo di 5 euro per chi pernotta negli hotel, diciamo, di lusso. No, noi vorremmo orientarci, non posso fare cifre, numeri, perché non ne abbiamo ancora discusso, quindi non sarebbe corretto, ma ci orientiamo per un provvedimento dolce, ecco, non incisivo, non portato al massimo, anche se così l'introito sarà un po' minore, però ecco, saremmo per dare il segnale che si fa uno sforzo reciproco, ecco, noi nel concertare provvedimenti a favore del turismo, dei luoghi d'accoglienza fondamentali dove ci sono da fare grandi investimenti e la povertà del comune oggi non consente di farli a livello adeguato, perché insomma chi viene a vedere la torre pendente trova intorno una situazione che non mi soddisfa e non soddisfa chi viene, però ci vogliono investimenti e poi per fare azioni di promozione mirate, quindi non un euro di questa, non un euro ma no 5, diciamo, essere no, due euro. Non un euro della tassa che verrà dovrà andare disperso oltre ciò che si deve fare per il turismo, ecco, questo è molto rigoroso. Questo è un punto interessante che mi permette di andare da Alessandro Cianella, come detto direttore generale di Federalberghi, l'organizzazione che rappresenta meglio gli albergatori italiani. Cianella, allora voi avete criticato che cosa? La mancanza soprattutto di un regolamento, il governo si era fissato una data entro cui fare un regolamento attuativo di questa tassa, e al che vuol dire che mancando questo regolamento che succede? Ogni comune può fare più o meno quello che vuole? No, Cianella, sostanzialmente sì, ogni comune sarà libero di determinare le modalità, la misura, le decorrenze, farà un po' quello che vuole. E soprattutto in assenza sostanzialmente di un quadro di riferimento univoco che avrebbe dato maggiori garanzie non solo alle imprese ma soprattutto ai turisti cittadini. Mi piace quello che ha detto il sindaco di Pisa, perché ha fatto riferimento a un principio fondamentale che è quello della concertazione, e ancora di più mi piace la circostanza che abbia nelle sue intenzioni immaginato l'imposizione di questa tassa per finalizzarla a interventi per sul turismo. E certo, cioè da una tassa di scopo, diciamo. Se penso al provvedimento, alla bozza di regolamento che ha fatto il Comune di Firenze, si fa riferimento agli interventi sul turismo, ma si fa riferimento anche ai servizi locali, i servizi pubblici locali. Ecco, manca una parolina, quella cioè che lega i servizi pubblici locali agli interventi sul turismo, vale a dire ai relativi servizi pubblici locali. Cioè temete che si faccia cassa per mettere a posto altre cose? Ecco, allora già noi questa imposta l'abbiamo mal digerita, perché arriva nel bel mezzo di una crisi che ancora perdura. Faccio un esempio banale, un albergo a 3 stelle che pratichi in realtà non certo Roma o Firenze, ma che pratichi 60 euro di tariffa per notte, alla quale si applichi un'imposta di soggiorno di 3 euro per per persona e fanno 6 euro, che sono il 10% di incremento delle tariffe. Mm-hmm. Ora mi chiedo, in una situazione di difficoltà economica che versa, in cui versa il paese e le imprese, abbiamo bisogno di rendere più attrattiva la nostra offerta. Non credo che un incremento delle tariffe vada in questa direzione. Sì, tra l'altro molti ascoltatori ci chiedono, ma vale anche per gli italiani? Beh, certo, per tutti i turisti, coloro che vanno e coloro che pernottano in un albergo, in una città che emette questa tassa. A Roma c'è già, come ha detto, Firenze la stanno studiando. Qualcuno ci fa sapere che l'idea di Renzi è un euro per ogni stella d'albergo. Effettivamente questa è l'idea, si può spendere, è il massimale 5 euro al giorno per chi pernotta in un albergo a 5 stelle. E si dice, beh, ma se uno può pernottare un albergo 5 stelle può anche permettersi 5 euro al giorno. Insomma, tutti i temi in discussione. Intanto vi sta ascoltando, io lo voglio salutare, il sindaco di Villa Piana in provincia di Cosenza, quindi siamo in Calabria, Roberto Rizzuto. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Ci dica che c'è il sole almeno lì, perché qua Oggi sì, ma stiamo avendo mesi piovosi. Meno male. Senta, sindaco, voi la tassa sul turismo, usiamo questa terminologia per semplificare, l'avete già messa, è vero? Sì, noi l'abbiamo istituita già con l'approvazione del bilancio. Oh, siete stati tra i più bravi, tra i più veloci, insomma. Ma non so se siamo stati tra i tra più veloci, volevo dire. Istituita, però non ancora applicata, perché stiamo aspettando i regolamenti, perché altrimenti non sapremo cosa fare. E quanto si paga a Villa Piana? Cioè, io noi, come diceva il presidente delle autonomie, il sindaco di Pisa, stiamo prevedendo una tassa abbastanza dolce, tra 1 e 2 euro, non di più. Al giorno? Ovviamente. Sì, al giorno, assolutamente. 1 o 2 euro. Beh, comunque, insomma, uno che pernotta, non so, 10 euro, 10 giorni può spendere 20 euro. Ma se posso, guardi, io vorrei dire una cosa, perché tutto quello che è stato detto, compreso quando detto dal dottor Cianella, è assolutamente vero. Noi dobbiamo fare una cosa, pensare a come fare i bilanci, soprattutto i comuni come i nostri, che vanno nei oltre i 5.000 abitanti, tra patto di stabilità ed altro. Non abbiamo possibilità di fare bilanci in maniera diversa. Questo federalismo municipale, io dico pessimo federalismo municipale, ci dice praticamente che dobbiamo fare cassa. Come lo facciamo? La tassa di soggiorno è una di queste. Insomma, lei ci sta dicendo che è un modo per fare cassa. Cianella, no, per investire, attenzione, per fare cassa, per investire sul turismo, servizi turistici, certo. Non per fare altro. No, ma su questo è interessante, però, per sindaco Filippeschi, perché Cianella ha detto, plaude insomma allo spirito di dire investiamo tutto nel turismo, però è vero, Italia, i comuni, le lamentele che ci sono, anche legittime, di dire ci tagliano i bilanci e adesso non c'è il rischio che qualcuno voglia fare cassa così con questa tassa? Ma io direi proprio di no, perché intanto è una rivendicazione, come dire, storica dei comuni, soprattutto dei grandi comuni di turismo o medio grandi come può essere Pisa, che hanno numeri incredibili. Noi abbiamo su Piazza dei Miracoli 3 milioni di biglietti staccati, quindi quanti saranno i turisti? Il doppio. Abbiamo 4 milioni e 200 mila passeggeri che arrivano all'aeroporto, abbiamo oltre poi l'università, il grande ospedale e tutto. Cioè, ci si metta nelle condizioni di valutare cosa può un sindaco che ha, diciamo, una città di 91.000 residenti e che ogni anno deve dare servizi per i rifiuti urbani a 150.000 puntualmente, come avviene a Pisa. No, quindi noi abbiamo bisogno di finalizzare, io ho sentito parole molto positive, diciamo, almeno in termini di confronto, di percorso del direttore, di chi rappresenta di Cianella, di chi rappresenta gli albergatori. Certamente noi ci mettiamo anche dalla parte di questi operatori che diciamo, non sempre in questa fase di crisi godono. No, anche perché sono in questa fase di crisi, arriva il conto e il conto presenta anche questa tassa sulla quale magari il turista arriva e dice: e che è questa cosa nel conto? È la tassa sul soggiorno, perché poi la devono riscuotere gli albergatori. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi riparto da Cianella e anche qualche ascoltatore a capire, cari ascoltatori, voi allora siete contenti di fare i turisti e finanziare con una tassa di 1-2 euro al giorno, fino massimo in qualche caso a 5 euro al giorno, ma per finanziare le città turistiche dove andate? Io sono o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. bianco o nero? Allora, vogliamo sentire l'800240024 un paio di ascoltatori, poi un paio di domande per Cianella. Paolo da Siena, buongiorno. Ciao. Paolo, sì, ciao. Pronto, dica. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Allora, io sono una guida turistica, lo so oramai da molto tempo. Il problema è quello, secondo me, non tanto di mettere un euro o due euro in relazione al tipo di albergo. La maggior parte dei turisti arrivano nelle città d'arte via bus. Ecco, quella è la tassa veramente sconvolgente. Perché, per esempio, qui a Siena, se arriva un autobus che ha 10 persone, paga 110 euro. Sì. Poi, quando sono arrivati al checkpoint, vengono portate in alcune parti della città, che purtroppo sono tutte molto distanti dal centro, e poi da lì devono andare a piedi in centro. Ma cioè lei che dice, dovrebbero mettere una tassa su... Beh, io direi che la tassa, diciamo, alberghiera tanto tempo fa c'era, poi è stata eliminata. Tanti anni fa c'era questa tassa che il turista pagava, la tassa di soggiorno, poi fu eliminata. Poi però, con l'eliminazione della tassa sugli alberghi, negli alberghi, sono arrivati a far pagare gli autobus, a Firenze per esempio, in relazione al tipo di motore che hanno. Che pagano. Lei dice è sbagliato, cioè meglio legarlo allora al soggiorno? Questo mi... Ecco, quella è la tassa veramente sbagliata. Ah, ok, perfetto. Se un euro o due che verranno spesi per soddisfare le esigenze giustissime della gente che viene nelle città d'arte per lasciare... Non c'è nulla di male. Sempre che vengano utilizzati e reinvestiti però nel turismo, insomma, mi pare di capire. Paolo, la ringrazio. Vuole andare in provincia di Verona da Matteo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo dire, invece di pescare sempre da contribuente, non si potrebbe per una volta razionalizzare i costi della politica? E magari verrebbero fuori tanti bei soldini, non so, le auto blu, le province. Sì, Matteo, eccetera, però eccetera. Guardi, sono temi che seguo anch'io, li facciamo qua, rischiamo un po' di scadere nel qualunquismo. No, se lei vuol fare una critica legittima alla tassa del turismo, a dire pescare nelle tasche del contribuente, va bene. Però insomma, non mettiamo insieme i costi della politica. Se si vogliono tagliare i costi della politica, si tagliano, punto. Non c'entra con la tassa sul turismo, cioè non è che la tassa sul turismo si mette perché non si riesce a tagliare i costi della politica. Comunque, grazie Matteo per la sua opinione. Alessandro Cianella, intanto le vorrei chiedere, voi fate anche sostituto d'imposta allo Stato, cioè riscuotete questo? Sì, anche se per in termini di diritto non potremo essere sostituti d'imposta, mentre i regolamenti che si stanno predisponendo tendono a configurare l'albergatore come responsabile della riscossione dell'imposta con relative sanzioni, cosa alla quale ci opporremo anche con ricorsi di carattere giudiziario. Voglio dire, non è pensabile che ci venga addossato anche questo genere di responsabilità. Però io volevo spostare l'argomento su un'altra considerazione che è emersa dagli interventi che sono stati svolti, e soprattutto l'ultima che è stata fatta con riferimento in buona sostanza alla circostanza che i cosiddetti pendolari, quelli che arrivano con i bus, che consumano la città, sono praticamente esentati da dare una qualsiasi forma di contributo. Ecco, questo mette in evidenza in buona sostanza che cosa? È che la modalità di imposizione di riscossione che è stata sbagliata. Allora, nulla avrebbe vietato la istituzione di una sorta di city tax da far pagare a tutta la filiera del turismo, a tutte le imprese coinvolte nel fenomeno. Allora avremmo avuto una incidenza impositiva bassissima, quasi ininfluente rispetto alle tariffe che ciascuno pratica, con gettiti sicuramente maggiori e probabilmente con ricadute in termini positivi per le amministrazioni comunali di gran lunga superiori. Per questa via il soggetto che è sicuramente penalizzato sotto un profilo degli adempimenti, dell'immagine, della onerosità, ma soprattutto della attrattività che la sua offerta perde, perché verrà letta dal turista con un incremento della tariffa. Certo. Il turista non distingue tra tariffa, imposta sul valore aggiunto, cioè quando gli presenta il conto uno dice ma chi è questo? Cioè, è la tassa di soggiorno e aumenta la spesa. Ecco, se si mette soprattutto quelle forme di turismo di vacanza dove sono una famiglia di 4 persone che va a fare vacanza in un albergo, come dicevo prima, magari di 3 stelle a 60 euro a notte, moltiplichi per 4-3 euro, fanno 12 euro. Sì, diciamo, uno lo percepisce come una tassa in più da mettere, non è che la percepisce con questo contribuisco, per carità, cioè se uno avesse una visione molto ampia, dice con questo contribuisco allo sviluppo del turismo e dei servizi su Venezia, va bene, però sindaco Rizzuta, Villapiana, uno viene a Villapiana e pensa con questa tassa di contribuire allo sviluppo dei servizi turistici di accoglienza di Villapiana, o lo percepisce il contribuente come dire: caro comune di Villapiana, mi hai messo una tassa se vengo a fare un soggiorno qui? Ma innanzitutto dobbiamo essere bravi noi a spiegare a tutti i turisti che vorranno ancora scegliere Villapiana che questa tassa sarà destinata solo e esclusivamente ai servizi turistici, anche perché con la scure, ripeto, dei patti di stabilità e soprattutto con i federalismi che stanno ormai per essere applicati, ci saranno dei tagli che poi dopo vanno a influire su questi servizi. Però sindaco, mi scusi, quando uno paga il conto all'albergo, non è che c'è l'albergatore che dice però guardi che lei sta sviluppando i servizi turistici di Villapiana, uno paga il conto e vede che è maggiorato. Mi perdoni, stiamo parlando di un euro al giorno, come è stato detto prima, stiamo parlando di un euro al giorno, 7 euro a settimana per ogni persona che andranno ad essere investiti praticamente sulla viabilità turistica e sui servizi turistici. È ovvio che in qualche maniera si deve fare, ritengo questa la forma diciamo meno dolorosa, meno invasiva. Tutto il territorio, ecco. Sentiamo Andrea d'Ancona, con lui concludiamo. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo dire che io sono da poco ritornato dalla Germania, lì c'è una tassa, se non ricordo male, di 1,60 euro al giorno, sì, qualcosa del genere. Ma c'è anche in Olanda, c'è in tanti paesi. Sì, esatto, ma rapportato alla qualità del servizio che danno è del tutto così, non preoccupante. Il problema, secondo me, in Italia è la qualità rispetto al prezzo. Se si pagano degli alberghi 4 stelle oltre 100 euro per la qualità che danno, non è il problema dell'euro e 60 al giorno in più, che saremmo ben disposti a pagare se la qualità fosse quella giusta. Ci fosse la qualità giusta. Cianella, vuole replicare, ma ci sono 20 secondi. Io direi che sotto questo profilo questa affermazione ha poco fondamento, se è vero come è vero che l'Italia resta ancora il paese in Europa più attrattivo sotto il profilo del numero dei turisti, ci sarà pure un motivo. È fuori dubbio che sicuramente ci saranno strutture che qualitativamente non sono all'altezza del numero delle stelle che hanno, vorrei ben vedere in quale famiglia non c'è una pecora nera, tra virgolette. Però ecco, sotto questo profilo mi sentirei di rassicurare gli ascoltatori, la nostra offerta complessivamente considerata è fortemente all'altezza della situazione. Io mi auguro soprattutto che ci sia nel confronto che dovrà svolgersi a livello delle amministrazioni comunali l'intendimento di trovare un accordo migliori. Mi pare di sì, cioè lo spirito almeno anche del sindaco Filippeschi è questo, il sindaco di Pisa, che comunque ringrazio tutti, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, il sindaco di Villapiana Roberto Rizzuto e il direttore generale di Federalberghi Alessandro Cianella. Ne riparleremo perché forse arriverà da luglio questa tassa, vedremo quanti comuni, se i grandi, Venezia, Firenze oltre a Roma aderiranno. Grazie ad Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Filippo Aureggi in regia. Trovateci su Facebook 24 Mattino, andate lì, cliccate e dite quello che volete, sempre con i toni misurati. E noi ci troviamo domattina alle 7:20.